maggio, e quindi vi ancora una volta vi ricordiamo sul sito di Radio Indarussa, su www.indarussa.info/radioabbonamento2019. Noi a questo punto possiamo incominciare, io vi metto e continuiamo quella che è un po' una discussione che abbiamo fatto anche in queste ultime settimane riguardo la questione ambientale. Siamo qui con alcuni studenti della Facoltà di Fisica della Sapienza, della ciclofficina che ormai purtroppo è stata murata nella Facoltà di Fisica, e sono qui a portarci anche un po' quella che è la loro versione di queste ultime settimane e la loro visione del problema d'insieme. Ciao. Ciao a tutti e tutte. Per iniziare insomma questa discussione sul clima, vorremmo iniziare insomma leggendo un po' di riflessioni sulla giornata del 15 e del 23 marzo, cercando di metterle un po' a confronto. Ricordiamo che il 15 marzo è stata, diciamo, il primo Global Strike for Climate, la giornata che è stata chiamata da Greta Thunberg, mentre il 23 marzo c'è stata la marcia per il clima contro le grandi opere inutili. Due giornate abbastanza diverse nella loro ispirazione, e insomma iniziamo leggendo qualche riflessione. Allora, 15 marzo, Global Strike for Climate. Migliaia di studenti di ogni età hanno riempito una piazza che Roma non vedeva da anni. Una piazza eterogenea e apolitica, animata da un sentimento generazionale nei confronti della questione ambientale. Lo stesso sentimento che dà forza alle parole rivolte da Greta Thunberg ai politici europei e del resto del mondo. Nella stessa giornata il movimento del Fridays for Future si è mobilitato in oltre 2000 città. Le stime arrivano quasi al 1,5 milioni di studenti che in tutto il mondo hanno scioperato per il clima. Fa riflettere la portata della mobilitazione che c'è stata in risposta alla chiamata della bambina svedese. Fa riflettere soprattutto chi della tutela dell'ambiente e dei territori ne fa un motivo di lotta da anni. Sicuramente una parte del successo della giornata del 15 marzo va attribuita al fascino che esercita la figura di Greta, con il suo leggero autismo, la sua espressione decisa e l'abilità di dire cose in maniera chiara, così come solo a un bambino è lasciato fare. Le masse hanno bisogno di simboli, questo si sa, e non è complottista credere che la risonanza mediatica globale del meme Greta sia stata fortemente benvenuta dalla sinistra europea, che ha delineato la transizione ecologica nel Paris Agreement del 2015. Questo è il documento a cui Greta riporta i politici del mondo nei suoi discorsi, ricordando gli impegni presi dalle nazioni che hanno sottoscritto il trattato riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 e a un modello di sviluppo sostenibile. La vera ragione del successo del 15 è da cercare proprio nel carattere globale del discorso di Greta, così come di quelli che sono stati urlati nelle piazze in quella giornata. A parte l'aberrazione dei negazionisti alla Trump, come si può, almeno in Europa, non condividere parole contro il global warming e a favore di una transizione ecologica all'insegna dell'equità? E poi, se ci si lascia sfuggire qualche frase antisistema, non fa niente, finché a pronunciarle è solo una bambina, incapace di comprendere i difficili equilibri della politica internazionale. Ma se da un lato un discorso globale contro i cambiamenti climatici agglomera molte persone, riversando nelle piazze le folle oceaniche del 15, dall'altro, proprio per la sua generalità, è facilmente strumentalizzabile anche da chi dell'ambiente importa solo a parole. Riguardo a questo si possono fare due esempi. Innanzitutto la carrellata di strette di mano onorevoli che la piccola Greta si è trovata a assorbire nel Parlamento europeo, come se i politici Juncker in primis facessero a gara per mostrarle approvazione laddove avrebbero potuto prendere posizioni più nette in passato. E poi come non ricordare il caso dell'ex presidente della Regione Lazio, neoeletto segretario del PD Zingaretti, che prima dedica la sua vittoria alle primarie a Greta, rivendicando la battaglia per il clima, e poi si fa beffe del movimento NoTav in compagnia di Fabio Fazio, come se bucare una montagna per 60 km senza neanche una buona ragione per farlo sia quello che il pianeta ci sta chiedendo per stare meglio. Inoltre, un discorso globale coinvolge le persone solo a livello emozionale, ovvero di sentimento, e non diventa un proposito di azione. Come possiamo noi cittadini combattere le emissioni? Come possiamo risolvere la crisi climatica? Basta scendere in piazza una volta tanto? Basta fare la raccolta differenziata? La risposta a questa domanda è negativa, così che pian piano quel sentimento forte che era alla base delle piazze del 15 rischia di affievolirsi e l'interesse delle persone per la questione climatica rischia di passare come passa una moda. Proprio su questo punto si può trovare una continuità tra il Fridays for Future e la marcia per il clima e contro le grandi opere inutili del 23 marzo a Roma, un corteo altrettanto partecipato rispetto al 15 e che ha visto portare in piazza le grandi vertenze territoriali italiane, come il NoTav, il NoTap e l'Ilva di Taranto, e romane, come il Movimento contro l'Autostrada Roma Latina, quello contro l'inceneritore di Albano e il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano. Tutte queste lotte sui territori sono legate da un unico filo rosso, che è la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone che lo abitano, contro le manifestazioni di un sistema economico neoliberista che mette al centro i profitti, contro la discultura del consumismo sfrenato e del benessere materiale non condizionato alle conseguenze sull'ambiente. Cioè sono lotte che combattono esattamente lo stesso modello di crescita e sviluppo che non riesce a ridurre le emissioni di gas serra su scala globale. Ma questa sintesi fra le lotte politiche locali sui territori e il movimento globale di Greta non è chiara a tutti. Il corteo, nonostante i numeri, ha ricevuto molta poca rilevanza mediatica e di certo non ha risvegliato la simpatia di tanti che invece si sono sentiti o detti in sintonia col Fridays for Future. Certo, perché è facile aderire a un sentimento, è facile dirsi contrari ai cambiamenti climatici in toto, ma quando il discorso sulla questione ambientale, da globale, viene calato nella località dei territori, si entra in una dimensione di conflittualità che non sempre tutti sono disposti a sposare. Dunque, da un lato è giusto fare autocritica come movimento e chiedersi se non ci si è fatti trovare impreparati rispetto alla questione ambientale intesa in senso globale, anche negli aspetti più di piazza, come la mancanza di COI e slogan. Chiedersi se si poteva cercare di rendere più evidente la connessione tra il discorso globale e le varie lotte locali e se non si potessero trovare dei simboli altrettanto forti di quello incarnato da Greta. Dall'altro va anche riconosciuto che il piano locale, che è quello che abbiamo sposato con le lotte sui territori, è l'unico su cui ci è davvero possibile agire e non solo parlare e fare appelli nella speranza che i potenti e i politici del mondo si convincano. E diciamo che come collettivi universitari i nostri piani su cui poter portare avanti una battaglia su queste tematiche ambientali sono sicuramente in primis l'università, con il tema della ricerca e della formazione che sono fortemente condizionate da tutti quei fattori esterni all'università, intesa come luogo di cultura, di studio e di produzione di sapere. Che sono ad esempio le multinazionali o le aziende che comunque si ritrovano nei consigli di amministrazione e dirigono in un certo senso la ricerca e anche la formazione, che chiaramente nel momento in cui si devono formare nuovi scienziati o nuovi accademici, lo si fa secondo i paradigmi della ricerca. E poi chiaramente abbiamo il piano cittadino, con il tema della mobilità, che noi come ciclo officina affrontiamo da molti anni, e su questo passo la parola a Alfredo. Ciao a tutti e tutte. In realtà io, proprio per ricollegarmi al settore universitario e soprattutto a una delle grandi cose che possono essere collegate al clima, volevo leggere l'introduzione di Scenari Energetici. Scenari Energetici è un opuscolo che è stato fatto a Fisica nel 2010 più o meno, e praticamente investiga gli scenari energetici proprio. È un opuscolo informativo sulle energie nucleari rinnovabili. Perché questa cosa? Perché praticamente noi siamo abituati a pensare che l'energia fossile sia il male del mondo e che le energie rinnovabili invece possano aiutarci e darci l'energia limitata di cui tutti hanno bisogno. Purtroppo questa cosa non è vera, e questa cosa è fondamentalmente alla base del sistema in cui stiamo. Allora, quindi passerò a leggere questa cosa e poi possiamo fare delle riflessioni in merito. Fin da subito abbiamo individuato la critica al sistema di produzione energetico come possibile base per una critica più generale al sistema sociale ed economico in cui è immerso. Cambiare la fonte da sfruttare, mantenendo il sistema socio-economico così com'è, passando cioè da un sistema basato su fonti fossili a uno basato su fonti rinnovabili, non fermerebbe la devastazione dei territori né l'aggressione alle popolazioni a cui assistiamo giorno dopo giorno. Muovere una critica ai modelli produttivi energetici coincide non solo col mettere in discussione le basi stesse del sistema economico in cui viviamo, ma anche con il cambiare il nostro atteggiamento rispetto al consumo di energia. Fino ad oggi la magica spina attaccata sulle pareti delle nostre abitazioni ha fornito quanta energia volessimo. L'unico freno al consumo è stata la finitezza del nostro portafoglio e dei nostri guadagni. Solo tramite un superamento di questa concezione potremmo cominciare a renderci conto degli sprechi che in prima persona ciascuno di noi perpetra, e soprattutto del processo di distruzione del pianeta Terra che l'uomo ha messo in atto in nome del guadagno e del benessere personale immediato. La domanda non può quindi continuare a essere solamente quale fonte energetica utilizzare, è necessario cominciare soprattutto a chiedersi quale sistema perseguire. Ora, questo qui è una breve introduzione a questo opuscolo che vi invito a tutti e tutte a leggere. Lo potete trovare sul blog officinafisica.noblogs.org, sotto la voce scenari energetici. Ora, per partire, partiamo da questa critica e fondamentalmente possiamo attaccarla a qualsiasi cosa noi viviamo. Per esempio, come ha detto Jay, parlando di mobilità, banalmente possiamo pensare che noi siamo abituati a muoversi veloce, ad andare a una velocità eccessiva, elevata, anche nelle città, anche in piccoli borghi, anche in luoghi in cui non è necessaria questa cosa. Ora, un filosofo del passato che noi riteniamo molto valido, Ivan Illich, ha posto una soglia minima di energia consumata procabile oltre il quale esiste l'iniquità e la disuguaglianza tra i popoli. Quello che abbiamo detto quindi è proprio quello, cioè nel senso non è il cambiamento del tipo di energia che viene utilizzata per i nostri scopi, ma è proprio un cambiamento di idea e di cioè nel senso di prospettiva, perché è ovvio che un giorno arriverà qualcuno che troverà una fonte di energia infinita, illimitata, pulita e rinnovabile, ma questa cosa però non cambierà le sorti del mondo, perché ci saranno sempre i ricchi da una parte e gli sfruttati dall'altra. Il problema è questo, quindi cioè nel senso tutte queste il combattimento, la battaglia contro il cambiamento climatico, contro la distruzione del pianeta Terra, non può essere una battaglia che si basa solo su questo, ma deve essere un grimaldello per arrivare a scardinare il sistema in cui noi siamo presenti, perché quello è l'unico modo per poter effettivamente avere un cambiamento e quindi insomma andare avanti, diciamo, fondamentalmente, cioè questa è la nostra idea e soprattutto diciamo che è quello su cui dovremmo basarci, perché è bello dire io uso le bottigliette di plastica, io uso le borracce e non le bottigliette di plastica, io faccio la differenziata invece di buttare le cose per terra. Il problema è che questo è solo un mero palliativo, perché di fatto non siamo noi quelli che inquinano, ma sono le grandi aziende e le grandi multinazionali del mondo. Certo, è vero che comunque parlare di queste cose ai cittadini, alle cittadine, alle persone in generale può essere utile a creare una consapevolezza di base che porterà a un cambiamento, però cioè, non è quello il punto e non dobbiamo noi essere quelli che dovranno occuparsi di questa riconversione energetica o comunque di questa cosa che, cioè nel senso è questo e niente, per ora insomma sì, no, è valido tutto questo che dicevi, soprattutto il fatto che appunto effettivamente poi in realtà andando a vedere anche la differenziata, no? Questa retorica verde che viene fatta, che è stata fatta in tutti questi anni, è sostanzialmente poi un contentino a quelle che sono le richieste di cambiamento nei confronti della questione climatica, nel senso che quando si è iniziato a percepire che appunto il clima stava cambiando, il nostro pianeta e nei suoi vari ecosistemi si stava andando distruggendo, è entrata un po' subdolamente, diciamo, questa retorica verde del fare la differenziata, del usa i vestiti di canapa piuttosto di quelli di cotone, che per carità poi anche a livello individuale qualcosa anche se minimo lo fa, però non è quello che cambia le cose e soprattutto è un freno poi a tutta quella che può essere invece un'organizzazione sociale da questo punto di vista per poi scendere in piazza, come in un certo senso è stata la giornata del 15, come sicuramente è stata la giornata del 23. Trovo questo molto interessante. In realtà la notizia che arriva di queste ultime ore riguarda la questione proprio della plastica all'interno delle università, per esempio, che giustamente si sottolineava come non fosse non è proprio la cosa che dà più impatto a livello assoluto, ma invece va sottolineata in un certo senso sia l'iniziativa degli studenti di Palermo, no? che hanno affisso dei fogli davanti a tutte le macchinette della propria università, scrivendo appunto come la plastica abbia un impatto devastante sul nostro pianeta e come l'università debba essere ad impatto zero, e augurandosi appunto l'utilizzo di borracce, che in questo senso appunto hanno sempre un impatto minimo come si diceva, ma hanno un valore di smuovere la coscienza collettiva in un certo senso. Io studio a Roma 3 ultimamente stanno iniziando a distribuire le borracce appunto in sostituzione delle bottiglie di plastica, che in realtà in sostituzione non sono, perché poi le bottiglie di plastica continuano a esserci nelle macchinette, continuano a esserci tutti i tipi di merendine, e in realtà questa è stata un po' una lettura lungimirante, se vogliamo, da parte del lettore di Roma 3, che ha avuto questa idea con qualche mese di anticipo rispetto alle mobilitazioni climatiche, e adesso si aspetta un ritorno anche dal punto di vista del consenso. Però è vero che da questo punto di vista io sto vedendo come tantissima gente si stia esprimendo sull'argomento, sia banalmente appunto perché queste borracce le vorrebbero avere prima che si laureano, sia però da una parte e dall'altra si sta creando un dibattito su quanto questa cosa abbia un impatto reale sul nostro pianeta. C'è chi dice appunto guardate che è una cosa seria, bisogna impegnarsi, c'è chi dice sì ok, però appunto le multinazionali procurano molti più danni di quelli che facciamo noi, e l'Italia non è neanche uno dei paesi che fa maggiori danni al pianeta da questo punto di vista, e che produce più plastica al mondo, e il che sono cose anche discutibili in parte, ma che comunque creano un dibattito che un anno fa non sarebbe stato pensabile, diciamo, almeno su livelli così semplici. E tutto questo ha una sua validità. Non so come vi esprimete voi, anche come studenti, come vi sembra che sia cambiato anche la discussione al riguardo, banalmente nelle aule anche della Sapienza. Ma io penso che effettivamente alla Sapienza, in realtà, rispetto a Roma 3, credo che siano un po' indietro, sinceramente. Ovviamente, cioè, quello che dico non è che è tutto inutile, però secondo me questo ha un nome chiaro ed è il greenwashing, ovvero, cioè, nel senso, ammantare tutto quello che viene fatto di questa patina green. Comunque io le borracce le utilizzo, quindi sono sicuramente più eco-friendly rispetto a chi usa le bottigliette in plastica. Queste cose vanno super bene, però come dicevi tu, ovviamente tutti gli studenti delle studentesse di Roma 3 hanno una borraccia, però poi le macchinette sono stracolme di plastica. L'impacchettamento, il packaging che viene prodotto per i prodotti alimentari, i supermercati, cioè quando uno va a un supermercato a fare la spesa si ritrova con 100.000 bustine e bustarelle di plastica che non possono neanche essere smaltite come tramite la differenziata, perché sono molto spesso composte da plastica carta, carta legno, carta forbice, carta sasso. Quindi insomma, diciamo che anche se uno volesse vivere nel modo più green che può fare in quanto cittadino, insomma, è pure difficile farlo. Poi chiaro, nel senso, l'università comunque è un'istituzione, è una cosa molto grande, e quindi se l'università prende parola su questa cosa a noi potrebbe pure andare bene, chiaramente, sempre con la consapevolezza che non saranno queste le cose che cambieranno il mondo, ma che possono essere utilizzate per far parlare la gente. Ora a fisica, insomma, sì, per esempio noi a fisica ne stiamo parlando, ne parleremo e ne abbiamo parlato anche in passato, quindi insomma è un tema abbastanza attuale, caldo, e credo che insomma se ne parlerà ancora. Diciamo che il valore dei piccoli gesti sicuramente è quello di creare una cultura dell'ambiente, di sensibilizzare le persone e di far sì che ci sia una, diciamo, un'attenzione nei confronti della questione ambientale. Chiaramente se se di fronte a questa creazione di sensibilizzazione, a questa operazione culturale, non si affianca un'operazione politica, diciamo la cosa rimane abbastanza sterile, appunto. Cioè, vale la pena comunque chiaramente creare una base culturale forte, che magari sia anche in grado di esprimere una classe politica che prenda delle decisioni coraggiose e che riesca a smuovere equilibri politici molto complessi, chiaramente, che è una cosa che richiederà tempo e tutto. Però appunto, cioè, se c'è anche bisogno di un'operazione a livello globale degli stati, una sorta di inversione di tendenza nella produzione dell'energia, verso, diciamo, non semplicemente un cambio dei mezzi con cui produrla, ma verso una riduzione drastica della produzione, per far sì che il pianeta possa continuare a sopravvivere, insomma. Sì, certo, perché poi appunto è tutto sistemico in realtà, cioè si può dire, penso, senza particolari patemiche, che fa parte tutto del sistema capitalista che ha intrinseche tutte queste modalità, e anche noi in realtà siamo parte del sistema capitalista. Prima si diceva appunto della questione delle macchine, no? E di come si utilizza la macchina, di come sia necessario utilizzare la macchina per spostarsi nelle città, ma è vero anche che appunto che è necessario, cioè che è impossibile fare altrimenti, perché noi appunto facciamo parte di un sistema per cui dobbiamo andare al lavoro tutti i giorni, per cui dobbiamo spostarci in zone anche lontane dalla città perché abbiamo bisogno di un lavoro e non è facile trovarlo vicino, perché appunto le città sono anche progettate in una maniera per cui è molto complicato creare un sistema di trasporti che sia indipendente dalla benzina, banalmente, e quindi tutte queste cose in realtà sono intrinseche, quindi è anche folle, diciamo, darsi troppo la spada di Damocle in testa e dirsi siamo noi responsabili di tutto questo e moralmente abbiamo il dovere di mettere a posto tutto questo, che ne so, in ogni aspetto della nostra vita. Non è questo, appunto, come dicevi tu, è un aspetto molto più politico che morale, ed è questo che poi può portare il cambiamento, perché di fatto l'autoflagellazione non fa bene a noi, ma fa bene soltanto a chi invece preferisce non intervenire in questo senso. E noi facciamo una piccola pausa, se vogliamo, e ci lasciamo con un po' di musica e ci sentiamo tra pochissimo. Restate con me. Quinte canto, conto quando punta quinte e in quanto punta quinte canto. Quando punta quinte, canto. Quando punta quinte, canto. Conto quanti anelli mi dividono dai piedi di quelli avanti che mi guidano, vedi sono quanti che mi legano agli altrettanti piedi che mi seguono, riconoscendo il nesso matematico, calibro il passo giusto in modo pratico, prima più lento e poi recupero, rapido accelero, valuto il vincolo fisico e ritmico, equidistante tra il minimo e il massimo, centro nevralgico e punto di transito, tramite il flusso di dati comunico e quindi mi libero. Passi si ripetono, quanti passi sotto si propagano, quelli sono tanti quanti se ne sentono, solo ricordarle già salito il numero, riconoscendo il fatto come epico, calibro il gesto giusto in modo clinico, prima più lento e poi recupero, prima c'è il vento e dopo arrivano. Sono primo io e sono l'ultimo, sono primo io e sono l'ultimo, ho fatto tipico del gioco civico, un ritmo matrico, perciò parole su parole su milioni di parole come cellule si scontrano, si moltiplicano, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto, conto quanto punta quinte e quanto punta quinte canto. L'unico miracolo politico riuscito in questo secolo è avere fatto in modo che gli schiavi si parlassero, si assomigliassero, perché così faceva comodo per il mercato unico e libero, però così succede che gli schiavi si conoscono, si riconoscono, magari poi riconoscendo, così succede che gli schiavi si organizzano e se si contano allora vincono, catene di catene su catene di milioni di catene, come fili di un lunghissimo telefono, come reticolo pieno di traffico e nessunissimo bisogno di semaforo. Sulla mia schiena è stato tatuato un numero, come il filo del telefono, anche se mi fermo mi uccidono, anche sto camminando in circolo. Sono primo io e sono l'ultimo, sono primo io e sono l'ultimo, ho fatto tipico del gioco civico, un ritmo matrico, perciò parole su milioni di parole come cellule si scontrano, si moltiplicano, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto. Quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quanto, quan riprendiamo un attimo la nostra chiacchierata. Siamo qui in corrispondenza con un compagno che ci parla appunto del contro la cementificazione delle città e non solo. Ci senti? Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, faccio parte dell'assemblea contro la cementificazione, nello specifico del comune di Marino, dove abito e dove operiamo, per impedire una speculazione che da progetto era stata avviata nel 2011 e per fortuna la gran parte al momento è ferma, anche perché è intervenuta la magistratura l'anno scorso su Parnasi, Palozzi, Civita e Lanzalone, quindi tutto l'arco, diciamo, parlamentare e regionale, e ha svelato le cose che già si sapevano, insomma, che gli interessi che ci stanno dietro, un progetto da 1.300.000 metri cubi e 12.000 nuovi abitanti qua nel solo comune di Marino, è qualche cosa che non sta né in cielo né in terra, perché sono speculazioni belle e buone legate, come ricorderete tutti quanti, a quella simile e anche più piccola dello stadio della Roma a Tor di Valle. Quindi, insomma, qua la situazione da questo punto di vista è in stand by da un annetto a sta parte. Non so se lo sapete, poi la regione ha approvato l'ampliamento del parco dell'Appia Antica di 1000 ettari, però non ha lasciato fuori 500 in zona Cecchignola, Torpagnotta, che erano previsti, insomma, come allargamento. Quindi, mentre da noi c'è una maggiore tutela perché sono messi d'accordo i 5 Stelle e la Regione Lazio, ma a seguito della vicenda giudiziaria, perché altrimenti pensa mai si sarebbe fatta una cosa simile, un allargamento del parco, però hanno lasciato fuori 500 ettari nel comune di Roma sostanzialmente, e questa cosa fa propendere molto molto male, specie chi sta nella zona del fosso della Cecchignola, che da anni si batte contro speculazioni dei costruttori e degli afferiti, che probabilmente, se non hanno allargato il parco da quelle parti, insomma, c'è sta qualche impiccio sotto. E questo solo come presentazione, insomma. Quindi sono 8 anni che stiamo, insomma, tutte le settimane a cercare di coinvolgere la gente, fare iniziative, inchieste e tutto quanto, come al solito, rantram, contro questo aspetto specifico. Però volevo dire due cosette al volo su quello che è stato, insomma, citato prima, sulla positività sicuramente di una ripresa di informazione così diffusa, di partecipazione così diffusa a livello studentesco, per quanto riguarda appunto la vicenda del clima e delle lotte ambientali, che, come dicono i compagni di fisica, poi appunto mi sono molto d'accordo, va declinata, insomma, sui territori in maniera più concreta che semplicemente evitando di comprare gli imballaggi di plastica, le bottigliette di plastica e queste cose qua, perché ovviamente si dice appunto che si fanno operazioni di greenwashing, come è partita Roma 3, probabilmente a catena andranno appresso pure Roma 2 e la Sapienza, sicuramente, perché non si fanno manca niente le nostre dirigenze. Però io quello che come contributo esorto appunto gli studenti e le studentesse in generale, non che ovviamente chi sta in studio, ma in generale, a formare i comitati territoriali, a dare una mano ai comitati territoriali esistenti, se possono andare bene, se sono organizzati e non ci stanno mire di entrismo nelle istituzioni locali, perché purtroppo tanti comitati a Roma e provincia sono fatti pure in questi termini, che chi li gestisce, perché ci stanno delle figure che a volte prendono in gestione questi comitati, poi cercano di fare, diciamo, entrismo nelle istituzioni e quindi sostanzialmente non fa nessun tipo di conflitto. Quindi io quello che esorto è gli studenti che si stanno laureando che stanno ancora studiando o che si sono appena laureati a effettivamente dare un contributo fattivo, perché quello che si nota nei comitati territoriali di tutti i tipi è che la presenza delle persone, diciamo, delle persone giovani scarseggia alquanto, perché siamo tutti presi ovviamente da mille problemi e quindi una volta usciti dall'università, diciamo, sono sempre di meno quelli che si sporcano le mani lavorando sui territori. Quindi faccio questo appello, perché è proprio una mancanza che si sente anche a livello, diciamo, tecnico, oltre che di contributo, diciamo, così politico, ma proprio, insomma, serve gente per fare i corsi, serve gente che sappia leggere tecnicamente i progetti scellerati che vengono spinti sui territori. E in questo particolare momento, per esempio, i progetti che vengono maggiormente spinti, perché ci sono gli incentivi, se no non sarebbero, sono quelli dei biodigestori. Insomma, in provincia di Roma ne incombono circa 150 come progetti, però capite, in territori dove c'è un certo conflitto, come qua ai Castelli, siamo riusciti insieme col coordinamento contro l'incendio di Albano, riusciti a impedirne l'installazione di diversi per fortuna, dove è presente, dove non sei presente, queste cose te le ritrovi con anche con comitati che sono a favore, oppure con l'ambiente che è a favore, quindi insomma si creano delle situazioni assurde perché dietro ci stanno gli incentivi statali. Quindi io esorto insomma i compagni e le compagne, ma i studenti e studentesse in generale, che incontrandoli poi alla fine delle manifestazioni, insomma così in giro per qua, per i paesi dove abitiamo noi, ci hanno detto: ho fatto la prima manifestazione della vita mia, sono stato contentissimo, l'hanno fatta anche a Frascati, 1500 studenti, o all'Altare della Patria, però poi sono tornato a casa e ho detto: mo che devo fare? Mo che devi fare? Mo se vuoi continuare a fare qualche cosa, impegnati nella scuola, fatti in collettivo, organizza un comitato da qualche parte, aggiungi da quelli che sono esistenti se ti piacciono, se no ne fa un altro. Insomma, cercate di continuare a sfruttare questo minimo di attenzione che è stato dato in questo periodo, grazie a insomma attenzioni più che altro mediatiche, perché poi appunto appena ha potuto Zingaretti, come ricordavate, è subito andato da FITAV a incensarli, a far sì che queste cose vivano concretamente nelle situazioni portate avanti, ed infine collegare tutto questo, perché questo sfruttamento dei territori, anche alle questioni sanitarie. Lì dietro di voi c'è stato il policlinico, e sapete bene la lotta che stanno a fare i lavoratori del policlinico, la repressione che hanno subito, e sapete pure bene che in questa città, in provincia, ma direi una cosa a livello nazionale, i tagli alla sanità vengono costantemente portati avanti. Quindi prima ci fanno ammalà inquinandoci, impiantando situazioni nocive nei nostri territori, poi quando te devi curare ti chiudono gli ospedali, e solo qua ai Castelli purtroppo a dicembre ne hanno chiusi tre per aprirne uno che ne vale un terzo di ciascuno di questi praticamente. Quindi ci costringono poi ad andare a ricasco della sanità privata, chi può permetterselo, chiudendo il cerchio con l'abbassamento generale, la precarizzazione di tutte le forme di lavoro, sia pubblico che privato, l'abbassamento dei salari. Quindi questa lotta insomma, che può comprendere anche i massimi sistemi, e sicuramente lo è, poi va declinata con l'aiuto degli studenti, degli chi si laurea, dei ricercatori, in maniera fattiva anche e soprattutto all'esterno dell'università e delle scuole. Questo è un appello che mi sento di rivolgere a tutti quanti, oltre a quello a sottoscrivere a abbonamento a Onda Rossa, perché è cosa buona e giusta. Eh sì, guarda, ti rispondo al volo, perché è giustissimo quello che dici. Diciamo che come analizzavamo giustamente, questo movimento è un po' nato a sorpresa, ha delle componenti di spontaneità e di spontaneismo molto evidenti, e è nato anche insomma in una certa maniera calato dall'alto, perché poi è una data chiamata a livello globale che non ha dato poi tempo né di formarsi a delle assemblee reali né agli studenti di incontrarsi veramente prima di scendere in piazza. E la sorpresa positiva è stata nel numero di persone che ha partecipato, poi si possono fare tantissime analisi sul perché è andata così bene e sul perché poi tantissimi ragazzi giovani, giovanissimi, moltissimi minorenni siano scesi in piazza. Certo che adesso si entra e si è già entrati in realtà in una fase in cui è importante consolidare questa lotta e spiegare appunto a chi è sceso in piazza magari per la prima volta il 15 e poi il 23 perché stiamo facendo queste cose e che in realtà nella tua città, nel tuo territorio, nel tuo paese ci stanno delle lotte che affrontano questo problema in maniera molto diretta, ma su ambiti un po' meno generali, ma effettivamente anche più pressanti anche dal punto di vista delle tempistiche, e che si possono e si devono attraversare in qualsiasi maniera. Quindi assolutamente va incoraggiato ogni momento di contatto tra questi due mondi, che in realtà sono lo stesso mondo, perché poi appunto la lotta è la stessa. Va fatto il prima possibile, va fatto entro le prossime date, che lo ricordiamo, il prossimo sciopero globale è del 24 maggio. Prima ci saranno una serie di mobilitazioni a livello locale, il 4 maggio a Taranto ci sarà un grande corteo nazionale appunto contro l'Ilva, che sintetizza un po' due delle cose che dicevi tu, sia sull'impatto ambientale sia sulla questione sanitaria appunto. E poi questo in realtà vale per tutti, perché diciamo la parte difficile della questione ambientale, ma che è anche il vantaggio in un certo senso, è che è un argomento ampissimo ed essendo un argomento ampissimo, però attraversa praticamente tutti noi, tutte le nostre vite in praticamente qualsiasi momento, va solo saputo declinare e va aiutata la gente che per le prime volte si sta affacciando a questo mondo a declinarlo nella maniera più consona, e certamente va mantenuto e consolidato questo legame. Quindi accogliamo assolutamente con favore questo tuo appello anche da Marino. Io l'ultimissima cosa è che appunto sono uscite dall'assemblea che è stata fatta nazionale, mi sembra sabato scorso, a proprio alla Sapienza, appunto questa serie di date, il festival a Val di Susa, quell'altro in Veneto, però ecco, insomma, l'importante è non riduciamoci in generale a tutti quanti a cadenzismo, a cose organizzate già che comunque vanno con le loro gambe, ma cercare di costruirle con le nostre forze, perché solo così c'è un intervento che poi è fattivo nei territori dove andiamo. Il festival è bello, è tutto quanto, è figo, quello che ci pare, però insomma non è risolutivo di assolutamente nulla, come sa pure chi lo organizza, perché se fa pure altro durante l'anno, perché altrimenti non ci sarebbe manco il festival. Quindi cercare di sporcarsi il più possibile le mani, mettere le mani nelle contraddizioni e arrivare a qualcosa di concreto, è assolutamente necessario. E poi per 24 maggio sicuramente intercettare i ragazzi e le ragazze che ci andranno, avendo già fatto eventualmente anche avendogli dei percorsi da proporre, ecco, soprattutto questo, perché se non c'è sta un percorso da proporre il 24 maggio, poi una settimana dopo finiscono le scuole e tutti in vacanza, quindi cerchiamo insomma di lavorare tutti quanti così. E niente, domenica scorsa qui a Marino sono venuti comitati e compagni singoli da Montelanico, Colleferro, da Casale Alba 2, da Monte Porzio, insomma c'erano diversi comitati territoriali, diversi compagni singoli, proprio per fare un'analisi di quanto accaduto in quest'ultimo periodo. E si è parlato pure dell'assemblea che si era svolta il giorno prima alla Sapienza, quindi cercare di ancora continuare a battere il ferro quando è caldo e pure quando è un po' più freddo. Tutto qua, un abbraccio. Dai, un abbraccio a te, buona lotta, buone cose, e noi ci salutiamo, e appunto noi ci lasciamo con un po' di musica, riprenderemo poi successivamente il nostro dibattito sulla questione ambientale, e tra poco in realtà un qualcosa che è strettamente collegato, sentiremo un compagno del comitato Rifiutiamoli, ma intanto un po' di musica. Questi sono i Greta Van Fleet con Black Smoke Rising.